Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. A tutte le persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Siamo arrivati alla puntata numero 514, nella quale parleremo di vita marina contemporanea, vecchi cani ben conservati, giovani cani alla moda ma patologici e del nostro manifesto contro le razze animali. Speriamo di avervi incuriositi. My sense is real. Partiamo con una piccola raccolta di notizie acquatiche. La prima viene da Londra, dove il 1 dicembre è stato rinvenuto il corpo senza vita di un cetaceo sotto al ponte di Battersea, nel sud-ovest della capitale inglese. Si tratta del terzo cetaceo privo di vita rinvenuto sul Tamigi nel giro di 2 mesi, dopo i casi di ottobre di una megattera e di una balenottera boreale. Ancora sconosciute le cause del decesso, ma l'esito potrebbe essere analogo a quello della megattera, soprannominata Hessie, che era stata trovata appunto morta a ottobre e che dalla autopsia era risultata probabilmente colpita da una nave, come sembrava suggerire la grande ferita nella parte inferiore della testa, oltre ad altre cicatrici più vecchie sulla pinna dorsale e sulla coda, che potrebbero significare che la povera megattera precedentemente era anche rimasta impigliata in una rete o aveva subito qualche altra interazione con l'attività umana. Ci spostiamo in Scozia, dove il 2 dicembre una palla di 100 kg di rifiuti è stata scoperta nello stomaco di un capodoglio arenatosi nell'isola di Harris. I rifiuti erano composti da reti da pesca, corde, cinghie da imballo, sacchetti, bicchieri di plastica, tutti compattati in una unica massa. Gli esperti non sanno dire con certezza se la morte sia legata ai rifiuti nello stomaco, ma come riporta la BBC, il ritrovamento evidenzia il problema molto più ampio dell'inquinamento marino. ¿Dónde acaba la tierra a la que perteneces? Tu guarida, tu hogar, tu sitio afortunado. El que ves es un lado del mundo que nos toca. Dalla Scozia torniamo in Italia, nella città marinara di Genova, dove da domenica 1 dicembre un branco di 4 orche è stato avvistato davanti al porto, all'imbocco del terminal container di Voltri. Gli esemplari sono 4, un maschio adulto, un cucciolo probabilmente sotto i 6 mesi di età, la mamma e un quarto esemplare che al momento non è certo se sia una femmina o un giovane maschio. L'orca vive normalmente in gruppi familiari a struttura matriarcale, composti da una femmina e da diverse generazioni da lei discendenti. Gli esperti sostengono che il cucciolo stia dando segnali di comportamento anomalo, potrebbe non stare bene, non farcela a sopravvivere. Inoltre tutto il branco è assai stressato dalle ore trascorse in mare, un mare molto trafficato, un ambiente decisamente troppo antropizzato per loro. L'avvistamento di orche è rarissimo nel Mediterraneo, davanti alle coste liguri. L'ultima volta che è stata avvistata un'orca è stato nel 1985. Quel che è certo è che questo gruppo di orche non sta facendo una vacanza in Riviera Ligure, ha sicuramente un problema. Auguriamogli di trovare al più presto il modo di scappare in mari più tranquilli, più puliti e ricchi di pesci. Ma soprattutto auguriamogli di non finire mai in un acquario come quello genovese, dove troppi bambini vengono portati a guardare animali prigionieri, come se tutto ciò fosse normale. Tu hogar, tu sitio afortunato. El que ves es un lado del mundo que nos toca. El México que asombra con bellezas salvajes, costumbres rurales, estrés cosmopolita. Es la nación contrita que pierde a sus personas. Las fosas nos destrozan la paz de los paisajes. Nos defraudó la guerra y su miseria cruda. Ancora acquatici, stavolta andiamo in Sicilia. Ne abbiamo salvate 5.000, aiutateci. Questo è il grido di allarme che arriva dall'ospedale delle tartarughe di Lampedusa. Si prospetta un Natale molto amaro per la biologa Daniela Freggi, che gestisce il centro con tanto di sala operatoria e ambulatorio e che sta lottando con tutte le sue forze affinché l'ospedale possa restare sull'isola siciliana e le sue tartarughe non debbano essere spostate in provincia di Agrigento. Le tartarughe vengono spesso ritrovate in mare con ami e lenze nel corpo. A salvarle ci pensa Daniela e il suo staff medico. 30 anni di attività, 5.000 tartarughe salvate. Ci hanno detto che i nostri locali non hanno l'agibilità e che dunque non sono a norma. Tra l'altro nella struttura non abbiamo né corrente elettrica né acqua. Ci arrangiamo con un generatore e con delle taniche per l'acqua, spiega la biologa. Quindi una sorta di ospedale da campo in mezzo al deserto, che invece si trova su una delle isole più belle del mondo. Di mattina faccio l'insegnante, di pomeriggio vengo qui al centro a salvare le tartarughe. Per me è una missione, sono una volontaria. Per fortuna ci sono i donatori privati, che sono molti e che ci scoprono soprattutto in estate, quando vengono a Lampedusa in vacanza. Entrano curiosi ed escono sensibilizzati. Il costo di un intervento per salvare una tartaruga, spesso con amie o lenze nel corpo o messa a dura prova dalla plastica e dal legname che si trova in mare, si aggira intorno ai 400-600 euro, a cui vanno aggiunti i costi dei trasferimenti aerei per i medici che si recano sull'isola a operare. Ad essere operate sono soprattutto le caretta, le tartarughe marine più comuni del Mediterraneo, che però sono a rischio estinzione. Purtroppo l'attuale amministrazione comunale non sostiene questa realtà, dunque neanche le tartarughe sono uscite indenni dal cambio di sindaco di Lampedusa. Come migranti, anche loro arrivano dal mare in una condizione di difficoltà, e la risposta del sindaco e della sua amministrazione a guida leghista sembra essere la stessa per umani e non umani. El México que asombra con bellezas salvajes, costumbres rurales, estrés cosmopolita. Es la nación contrita que pierde a sus personas. Las fosas nos destrozan la paz de los paisajes. Nos defraudó la guerra y su miseria cruda. Los cantos libertarios nos marcaron fronteras que no nos abarcaron. El México de afuera tiene abiertas las rutas, diversos los colores, vibrantes las culturas que nos forman el nombre. Aquí somos aztecas, huicholes, tarahumaras, las etnias que resguardan la magia de la historia, también los que la ignoran, también los que la venden. Somos geeks temerosos del roce de la gente, mestizos en estadios ruidosos de las urbes, civiles que se aturden con gritos de sirena. El amor que se fragmenta en credos e intenciones. Al margen de la gula del plan inmobiliario, el campo maltratado comparte frutos tristes que saben a manjares. El miedo en las ciudades camina más deprisa, se esparce diamantina por las charcas de sangre. Nuestras causas se agitan con banderas aisladas. La imagen nos deslumbra, la prensa nos engaña. La empatía se posterga con el traje de gala. Il 29 novembre scorso sul sito internet della Coldiretti abbiamo trovato un comunicato che merita un'analisi dal nostro punto di vista, cioè un punto di vista esplicitamente animalista, antispecista e vegan. Dunque, la Coldiretti, durante un appuntamento nazionale, il cui titolo è già tutto un programma, ovvero Natale a tavola, denuncia un SOS presepe, mettendoci di fronte al fatto che negli ultimi 10 anni, secondo uno studio, sarebbero scomparsi dalle campagne italiane quasi 2 milioni di animali, tra pecore, mucche e maiali. Per rendere più plastica tale denuncia, tra i sassi di Matera, capitale europea della cultura 2019, è stato realizzato un presepe vivente con gli animali di razze antiche, a simboleggiare la straordinaria biodiversità delle stalle italiane, dove sono minacciate di estinzione ben 130 razze allevate, tra le quali 38 di pecore, 24 di bovini, 22 di capre, 19 di equini, 10 di maiali e 10 di avicoli. Dunque non si fa nessun cenno alla vita degli animali, al fatto che queste razze sono state create dall'uomo, che in natura non esistono, che le loro forme fisiche e le loro personalità sono state forzate in una precisa direzione, quella del profitto, maggiore produttività, minori problemi di gestione. Nulla importa se le loro vite sono vite di prigionieri, quindi non vite, nelle quali ritmi produttivi, aspettative di vita dipendono da individui di un'altra specie, con logiche proprie di utilità e di profitto. È vero, scomparendo questi allevamenti a cielo aperto, scomparendo mucche e pecore, sono scomparsi, come dice Coldiretti, anche i pascoli e i prati, e il risultato è che negli ultimi 25 anni è andato perduto oltre un quarto della superficie agricola e con esso la capacità di assorbire le emissioni inquinanti, ma anche di assicurare il riempimento delle falde acquifere. Ma a spingere sul consumo di carne a basso costo, a spingere sul profitto, a progettare allevamenti al chiuso dove miliardi di animali non fanno in tempo a crescere, aumentano di peso in modo abnorme, non vedono mai la luce del sole e si nutrono di soia invece che di erba dal peggio, sono stati altri allevatori, anch'essi magari della Coldiretti, solo più grandi, più audaci, più organizzati. Gli allevatori intensivi hanno solo portato all'estremo il lavoro che gli estensivi avevano iniziato. Ci si duole tanto per la scomparsa degli allevamenti a cielo aperto, ma non ci si chiede seriamente se sia possibile convertire il consumo di carne mondiale attuale in una produzione estensiva a cielo aperto. Ovviamente la risposta sarebbe no, perché la terra a disposizione non basterebbe. Non è la nostra soluzione, ma non abbiamo mai sentito un invito a consumare meno carne. Magari a prezzi più alti, l'unico modo per garantire la sopravvivenza dei piccoli produttori. Le richieste degli allevatori sono sempre le stesse. Sgravi fiscali, sussidi, stop alla concorrenza che viene dall'estero e che a sentir loro è sempre sleale. Gli animali custoditi negli allevamenti italiani, sottolinea la Coldiretti, rappresentano un tesoro unico al mondo, che va tutelato e protetto, anche perché a rischio c'è la manutenzione del territorio, che è garantita proprio dall'attività di pulizia e di compattamento dei suoli svolto dagli animali. Ma loro, gli animali, quelli che non si possono permettere di invecchiare, quelli che non possono decidere se e quando riprodursi, quelli che non possono veder crescere i propri cuccioli, non esistono mai nelle parole di chi li alleva. È un enorme rimosso che non fa comodo a nessuno ricordare. Si dice che il comparto vale 17,3 miliardi di euro, ma non si dice qual è il prezzo pagato da questi schiavi, il cui grido viene tenuto più lontano possibile dalle nostre orecchie. E a proposito di orecchie, Coldiretti ci tiene a sottolineare che invece gli asini, nel giro di 10 anni, sono praticamente quintuplicati. Oggi in Italia si contano 62.000 quadrupedi dalle grandi orecchie. Che bella notizia! Un po' meno bello è sapere che questa esplosione è dovuta al boom di certi nuovi prodotti a base di latte di asina, così pregiato per le sue proprietà cosmetiche. Quindi nuove modalità di sfruttamento, fino ad arrivare all'ecologico turismo a dorso d'asino. Poveri asini, avevano già la corda al collo ai tempi della stalla di Gesù e non è bastato neanche lui, perché 2000 anni dopo della loro schiavitù non riescono ancora a intravedere la fine. avere parlato di zootecnia, restiamo in tema e ribadiamo la nostra linea editoriale, che è fortemente critica verso il concetto di razza e in particolar modo verso il mercato dei cuccioli di razza. Noi siamo contrari per motivi etici e a prescindere dal loro stato di salute, cioè saremmo contro i cani e i gatti di razza anche se non ci fossero implicazioni mediche nella selezione delle razze. Però un veterinario è arrivato alla nostra stessa conclusione partendo dal suo ambulatorio e dall'osservazione dei suoi pazienti. Quindi con piacere vi proponiamo un'altra puntata della rubrica del medico veterinario Massimo Raviola intitolata Che razza di bastardo. Mi chiamo Massimo Raviola, sono un medico veterinario laureato nel 1991 all'Università di Torino e con un master in bioetica sempre conseguito nel 2008 a Torino. Se volete contattarmi potete scrivermi a massimoraviola75@libero.it. Oggi vi racconto la storia di Lady, un bulldog francese. Lady è appunto una bella cagnolina di 6 anni, un cane che come tanti altri noi umani abbiamo deciso di inquadrare come cane di razza, in questo caso appunto un bulldog francese, che va molto di moda tra l'altro. Dopo il primo anno di vita relativamente sereno, mi è stata portata un giorno in visita per un problema di vomito e dissenteria continui. Visto che i primi trattamenti sintomatici non davano risultati e anzi sembrava che la situazione a volte fosse anche peggiore, si decise per maggiori approfondimenti specifici e procedemmo così a una gastrocolonscopia con relativi prelievi biopsici, oltre ai normali esami di routine. I risultati purtroppo confermarono quello che a quel punto era il nostro sospetto diagnostico principale, ovvero un'enterite cronica. Cosa c'è di strano, chiederete? È una patologia che può capitare. Ma il problema è che se in tutti i cani cosiddetti normali, appunto, può capitare saltuariamente o raramente in alcuni soggetti, nel caso dei nostri bulldog francesi invece può ormai essere tranquillamente definita come una caratteristica di razza. Insomma, la maggior parte dei bulldog francesi soffrono di questa patologia. L'enterite cronica, come dice la parola stessa, è una malattia che in pratica non passa, non guarisce mai. Fa parte intimamente dell'animale per tutta la sua vita, con ripercussioni gravi sul funzionamento del suo apparato digerente e soprattutto con gravi ripercussioni sul suo stile di vita, per sempre. Ora Lady sta abbastanza bene, nel senso che non vomita più tutti i giorni come prima e le crisi di diarrea sono meno frequenti, ma è condannata a prendere farmaci tutta la vita, a fare una dieta estremamente restrittiva per tutta la vita. E i suoi padroni hanno sulle loro spalle, oltre al disagio e al dispiacere di avere un animale malato, il peso economico di un animale che prevede frequenti interventi medici. Come detto, questa malattia in una popolazione di cani cosiddetti meticci, ovvero non di razza, è presente in numeri assolutamente trascurabili, che quasi non farebbero statistica. La natura ha da sempre un semplice obiettivo quando crea nuovi cuccioli, dargli tutte le possibilità di avere una vita lunga, sana e dignitosa. Ma nel caso del bulldog francese, come in tutte le razze, ricordiamoci che in natura non esistono le razze, l'uomo è intervenuto a gamba tesa sulla natura, avendo come finalità non migliorare nella vita del cucciolo, ma per selezionare una serie di caratteristiche che in passato probabilmente avevano a che fare con predisposizioni di tipo lavorativo, tipo fiutare i tartufi, seguire le tracce, riportare le prede, ma che al momento sono principalmente estetiche, volte unicamente a creare un mercato e lucrare sulla moda del momento. Moda che ovviamente deve sempre cambiare. Poco importano le conseguenze di questi sconvolgimenti sul normale corso della selezione naturale. Il risultato è che quelli che in passato erano difetti occasionali e velocemente eliminabili sono oggi delle vere costanti nei cuccioli domestici, rendendoli pazienti cronici a vita. E questo il punto, e questo il retroscena, il crimine taciuto del mercato dei cuccioli di razza. Le loro malattie, le loro patologie non sono eccezioni, ma sono la normalità. Noi veterinari, come anche gli allevatori, i cinofili in genere, non possiamo negare di sapere tutto ciò. Sappiamo cosa stiamo facendo e ne conosciamo le conseguenze. Eppure, sembra che vi sia ormai uno stato di rassegnazione generale. accettiamo insomma questi effetti collaterali, solo che li accettiamo sulla testa, o meglio sulla salute di quelli che ci ostiniamo a definire i nostri migliori amici, i nostri amatissimi cuccioli. Cominciamo a riflettere, cominciamo a chiederci se è corretto imporre certe sofferenze ai nostri più fedeli amici solo perché ci piace che abbiano una determinata forma, un determinato pelo, un determinato profilo, o se il maltrattamento non inizia proprio da qui. I wish I was a mole in the ground. Yes, I wish I was a mole in the ground. If I'm a mole in the ground, I'd root that mountain down. And I wish I was a mole in the ground. Oh, Tippy wants a $9 shawl. Yes, Tippy wants a $9 shawl. I come o'er the hill with a $40 bill. Baby, where you been so long? I've been in the band so long. Yes, I've been in the band so long. I've been in the band with a rough and rowdy man. Baby, where you been so long? Oh, I don't like a railroad man. No, I don't like a railroad man. If I'm a railroad man, then I kill you when I can. Drink up your blood like wine. La rubrica di Raviola deve farci riflettere sull'urgenza di fermare la fabbrica dei cuccioli di razza. Se volete un cane, adottatelo da un canile. E la ricetta di cucina di oggi, curata dal nostro fedelissimo tosco vegan chef Gabriele Palloni, all'interno del suo spazio etico-gastronomico Il Pasto Gentile, è dedicata proprio ai meticci. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Se di bastardi si parla, la ricetta di oggi ci riporta niente di meno che nella Perugia del 1500. Come dei novelli Troisi e Benigni, trasportiamoci a Frittole e prepariamo una bella tartera bastarda. Gli ingredienti per una teglia di 20 cm di diametro sono 50 g di farina di ceci, 160 g di malto di riso o di orzo, 30 g di mandorle, 30 g di noci sgusciate, 250 g di tofu, 150 g di farina di tipo 0, 50 g di amido di mais, 30 g di scorze di arancio candite, dell'acqua di rose, un pizzico di cannella in polvere e dello zucchero a velo per decorare. Fate scottare il tofu in acqua bollente per 5 minuti. Quindi scolatelo e unite le scorze di arancio candite, il malto di riso che avrete fatto intiepidire e le noci e le mandorle che avrete ridotto in farina con l'aiuto di un macina spezie. A parte diluite la farina di ceci con poca acqua fino ad ottenere una crema. Unite la farina e l'amido di mais e mescolando con una frusta l'impasto tiepido di tofu, malto e frutta secca. Foderate con carta forno uno stampo di 20 cm di diametro. Versate il composto e fate cuocere a 180 gradi in forno statico per 30 minuti. Una volta tolta dal forno, aromatizzate la torta con qualche goccia di acqua di rose e lasciate raffreddare. Servite con dello zucchero a velo aromatizzato con cannella in polvere. Ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro La cucina regionale italiana vegana, edizioni Newton Compton. Just what you want.